Diciamo che la nostra esperienza sulle questioni delle navi israeliane parte dal 2021, quando appunto siamo riusciti a intercettare un carico di missilistica di precisione italiana diretta appunto a Israele, che doveva essere usata contro una delle ennesime aggressioni da parte di Israele alla popolazione di Gaza. In quel contesto lì riuscimmo ad organizzarci assieme ai portuali livornesi e napoletani per cercare di boicottare questa nave appunto della compagnia Azim, di bandiera israeliana. Oggi invece, dopo appunto lo scoppio, diciamo, di quella che è quel genocidio portato avanti da Israele verso i palestinesi, e dopo l'appello lanciato il 16 di ottobre dai sindacati palestinesi, abbiamo deciso di mobilitarci appunto a sostegno di quella che è la resistenza e il popolo palestinese. Quindi abbiamo deciso di lanciare questa data il 10 di novembre, dove faremo un blocco al varco di San Benigno dalle ore 6, per poi spostarci sotto la sede della compagnia Azim, che è a poche centinaia di metri dal varco portuale. Abbiamo deciso appunto anche di fare una chiamata più allargata, senza dichiarare lo sciopero in questo caso, perché crediamo che sia un problema che tutta la cittadinanza, tutte le associazioni palestinesi, tutti i sindacati, partiti, organizzazioni politiche debbano in qualche maniera partecipare e sostenere quella che è la chiamata, diciamo, dei sindacati palestinesi. Quindi faremo questo percorso iniziale del 10 per poi cercare di costruire una giornata di sciopero sempre a sostegno della popolazione palestinese. Quello che i porti oggi vivono appunto è un'accelerazione di quello che è il trasporto di armi. Basta vedere l'ultimo accordo che la compagnia Azim ha fatto qualche giorno fa rispetto a quello che il transito di armamenti dagli Stati Uniti d'America a Israele, e si vuole porre come, diciamo, sistema logistico per aiutare Israele in questa offensiva contro la Palestina. Noi in questo sistema ovviamente non ci stiamo, come l'abbiamo dimostrato negli ultimi 5 anni, di come sia veramente una preparazione delle varie guerre l'invio di armamenti tramite i porti civili, e quindi, non volendo essere neanche complici di quelli che sono i massacri, abbiamo deciso di intraprendere questa lotta qua contro, appunto, in questo caso la compagnia Azim, ma anche contro tutti i traffici di guerra. Quello che stiamo vivendo oggi è una continua escalation verso una guerra totale. Basti pensare ai fronti aperti adesso, appunto, in Medio Oriente, in Europa, in Africa, piuttosto che quello in Asia, per farci pensare che tutti dobbiamo mobilitarci per bloccare quelle che sono le politiche di guerra oggi portate avanti da, per quanto ci riguarda, il governo Meloni, quindi l'Italia che sta all'interno della NATO. Quindi una delle nostre richieste è appunto che l'Italia esca fuori dalla NATO, perché questo sistema qua è lo stesso che sta togliendo risorse dalla pubblica istruzione, piuttosto che dalla sanità pubblica, ma anche dal mondo del lavoro. Cioè, noi adesso, come lavoro per i portuali, faccio un esempio più pratico, per anni abbiamo chiesto appunto andare in pensione anticipata, visto il rischio gravoso del nostro lavoro, ci è sempre stato detto che mancano i soldi. Questi soldi vengono finanziati alla Leonardo, che si infila all'interno delle università per progettare nuovi armamenti più tecnologici, per far sì che ci siano anche guerre a distanza, come stiamo vedendo con i vari droni che stanno portando avanti la Leonardo. La Leonardo oltretutto è una delle aziende che vende maggiormente armamenti a Israele, e quindi è un sistema che è talmente malato che oggi va contrastato. Gli unici che possono contrastarlo in questo momento siamo noi, intesi come classe operaia, ma anche come cittadini che subiscono questo genere di politiche, che non rappresentano nessuno se non gli interessi di armatori e dei grandi capitali, o dei grandi armatori per quanto ci riguarda nel nostro caso specifico. Tu raccontavi anche appunto delle precedenti mobilitazioni di questi anni, si è creata anche un po' una rete di porti, no? Che resistono nello stesso modo. Sì, noi siamo partiti nel 2019, diciamo che sembravamo quasi una banda di matti all'interno del porto, e quindi abbiamo cominciato questo percorso pensando che appunto i porti, essendo l'ultima frontiera prima dei teatri di guerra, perché stanno all'interno di un sistema di quella che è la produzione di armi, che passa appunto dall'università, poi tramite le fabbriche, come dicevo prima, appunto l'ultima frontiera sono i porti, ma anche gli aeroporti, come abbiamo visto a Pisa poco tempo fa. Abbiamo avviato questo percorso anche di sensibilizzazione tra i lavoratori. Molte volte abbiamo avuto modo di partecipare a assemblee, iniziative politiche, piuttosto che meeting al Parlamento di Bruxelles, dove sono stati invitati portuali francesi, portuali greci, ci hanno invitato in Slovenia al porto di Koper per parlare appunto di quella che è la situazione degli armamenti nei porti, siamo stati veramente ad Amburgo, a Kiel, in Belgio, ci siamo stati ovunque e oggi possiamo dire che vediamo i frutti di questo lavoro fatto negli ultimi 5 anni, perché in maniera autonoma, come stiamo vedendo dalle ultime notizie, come sta succedendo a Barcellona, in Belgio, piuttosto che a Auckland e via dicendo, in maniera autonoma totale stanno incominciando a colpire, tra virgolette, quelli che sono gli obiettivi della logistica militare. Quindi per noi è gratificante che in qualche maniera si sia presa della coscienza nel mondo del lavoro, in quella parte del mondo del lavoro che può essere determinante in quelli che sono i blocchi di questo sistema produttivo legato alla guerra.